Il 3 giugno riaprono i confini tra le regioni. Walter Ricciardi, un consulente del Ministero della Salute notissimo di questi tempi, è tra coloro i quali hanno forti dubbi circa l'opportunità di questa riapertura generalizzata. Dal punto di vista tecnico e scientifico, ha detto, non ci sono i presupposti per realizzarlo. Tamponi ed esami sierologici non garantiscono, ad esempio, che chi sta incubando la malattia sia sempre rilevato. E ancora, i dati delle regioni non sono attendibili e quindi non possono essere di aiuto alle decisioni della politica, esporrebbe a rischi. In più, la situazione in Lombardia è preoccupante. E dunque abbiamo avuto una chiusura totale, il confinamento nelle proprie abitazioni, con questo orribile termine inglese, il lockdown, per mesi, e ora all'improvviso deve prevalere l'ottimismo. Si vogliono aggirare le grandi questioni emerse con la chiusura del paese, il crollo della produttività, il pericolo per i posti di lavoro, il crollo dei redditi delle persone, con un'apertura legata all'ottimismo del calo dei contagi, ma che è meno sostenuto dagli esperti. Ancora una volta rileviamo una vita parallela tra quella dei tecnici, che hanno un loro punto di vista, e quella della politica, che deve assumere decisioni, ma che troppo spesso le assume con argomenti e con mancanze di coerenze sorprendenti. Forse si sarebbe potuto aprire prima con molta cautela e non aprire di colpo adesso con una evidente impossibilità di avere tutti i controlli adeguati. Ma nel contempo il mondo non si è fermato. In Italia abbiamo già parlato della elezione del nuovo presidente di Confindustria, Bonomi, che in questi giorni è tornato all'attacco. Bonomi pone una potente ipoteca di Confindustria, del mondo imprenditoriale, sulla ripresa, sul rilancio del paese, approfittando evidentemente di un vuoto della politica che è stato evidentissimo, ne abbiamo già parlato, in questo periodo di emergenza epidemiologica. Il discorso di Bonomi si concentra su due punti, semplicissimi, chiarissimi, durissimi. La produttività viene prima degli aumenti salariali. Manda a dire al sindacato Bonomi, attraverso gli organi di stampa, bisogna puntare sulla produttività ancor prima di parlare di aumenti retributivi. Dunque c'è un paese impoverito, un paese in difficoltà, un paese dalle diseguaglianze crescenti, e tutti i gruppi sociali sfavoriti non devono essere in alcun modo aiutati, non devono essere in alcun modo emancipati dalla loro condizione di debolezza e di sofferenza economica, perché prima di tutto viene l'impresa. Sostiene Bonomi che dove c'è un'impresa sana, c'è un paese sano. In sostanza, un paese a rimorchio, graziosamente, della potenza degli industriali. E il secondo punto, che è evidentemente corollario di questo, è la espressione contro la contrattazione collettiva. Ora, la contrattazione collettiva del lavoro è una delle grandi conquiste sindacali, è una delle grandi conquiste sociali delle democrazie moderne. Abolire la contrattazione collettiva vuol dire riportare tutto a una contrattazione aziendale, nella quale azienda per azienda la forza dei datori di lavoro può avere un potere determinante nei confronti dei lavoratori, dei loro diritti, dell'organizzazione del processo produttivo. Invece proprio oggi la contrattazione collettiva dovrebbe essere definitivamente estesa al lavoro sommerso, al lavoro nero, al lavoro precario, al lavoro delle false partite IVA. È un elemento fondamentale della democrazia e dei diritti sociali, la contrattualizzazione del lavoro, la sua formalizzazione e la contrattazione collettiva, proprio perché questo consente di presentare istanze che sono di tanti e mettere sullo stesso tavolo per poterle risolvere attraverso una mediazione, attraverso una contrattazione, attraverso una lotta ove necessario. Ora, Bonomi pone sul tavolo una grande questione, la questione tra destra e sinistra. Finalmente le cose sono chiare. Potranno ancora tanti politici di questi ultimi tempi dire che non c'è più differenza tra destra e sinistra, bisogna guardare avanti. Bene, ora abbiamo una chiara politica di destra. Lasciamo perdere le follie e il folklore di taluni. Questo è la destra. Prima l'impresa, prima gli imprenditori. E la sinistra dovrebbe essere prima il lavoro, prima la programmazione, prima i diritti sociali, che non devono assolutamente contrastare con le possibilità di espansione dell'impresa, ma che sono necessarie perché l'impresa si espanda in un contesto democratico e in un contesto di garanzie sociali. Il Movimento 5 Stelle si limita a difendere il governo. Potrà ancora dire domani che non c'è differenza più tra destra e sinistra? E infine il 2 giugno. Il 2 giugno si celebra l'anniversario del referendum istituzionale che ha definitivamente spazzato via la monarchia dall'Italia e ne ha fatto una repubblica, e l'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe scritto nel corso del 1946 e del 1947 la carta fondamentale del nostro paese. Ora la destra, con un'operazione tipica, vuole appropriarsi di questa festa. Ha cercato di annientare il 25 aprile, riducendolo a una festa di parte, perché le due parti sarebbero state sullo stesso piano ai tempi della resistenza e della seconda guerra mondiale, e oggi vuole appropriarsi della 2 giugno come una festa di orgoglio nazionale, come una festa di orgoglio italiano, come recita una parola d'ordine dei neofascisti e della destra che si sono convocati in piazza a Roma il 2 giugno. Certo, si potrebbe ironizzare su questi gruppi. Ricordiamo che quando il fascismo storico proclamò la marcia su Roma con la famosa parola d'ordine o Roma o morte, ci fu chi, allora si poteva ancora fare satira politica, disse o Roma o orte, anche perché alcuni treni degli squadristi che andavano a Roma si trovarono bloccati a Orte. Oggi addirittura un gruppo si chiama Marcia su Roma, di coloro i quali organizzeranno le manifestazioni il 2 giugno. Ora, non può esserci contrasto più stridente. La Costituzione italiana nasce proprio contro il nazionalismo esclusivo dei fascismi. La Costituzione italiana è inclusiva, è cosmopolita. Le libertà costituzionali sono garantite come diritto e come doveri, perché rappresentano la responsabilità sociale, che è il fondamento della vita democratica sancita dalla nostra Costituzione. Non si può essere responsabili senza diritti, non si può godere di diritti senza responsabilità verso l'intera società. Una società che è aperta e inclusiva, come recitano i diversi articoli dei principi fondamentali e del titolo primo. I primi 12 articoli della Costituzione spiegano chiaramente che i diritti sono per tutti, non vengono prima gli italiani, anche perché sarebbe difficile stabilire chi sono gli italiani puri. Vorremmo forse dire che siamo una nazione definita razzisticamente e ci sarebbe una razza di italiani puri che ha più diritto di altri? Ecco, la Costituzione è nata contro tutto questo. Dall'articolo 1 in avanti spiega esattamente che la società deve essere inclusiva e che i diritti devono essere per tutti. Ricordiamocelo il 2 giugno, quando dovremo sopportare i fastidiosi rumori della marmaglia neofascista.